precisando che non percepisco una doppia indennità, ma percepisco una sola indennità, quindi sì. Non è un problema perché qualcuno vuole speculare, vuole... Non è questione di soldi. Lei prende quella da deputato, che quant'è, ce la vuole ricordare, deputato regionale? Intorno a 11.000 euro. 11.000. E quella di Tino è intorno a 9.000 euro. 11.000 netti, mi perdoni, netti? Netti. 11.000 euro. E quella di sindaco è intorno a 8.000 euro, quindi non è un problema che riguarda l'aspetto finanziario, come qualcuno vuole far intendere. Io dico, in un sistema democratico vi sono due elezioni, non due incarichi, perché anche lei parlava di doppio incarico, no? E sono due elezioni. Sì. Dopodiché interviene legittimamente una sentenza della Consulta. Sì. Il problema in questo momento che si pone è questo. La Consulta agisce retroattivamente, come non ritiene la Giunta per le elezioni del Senato, o agisce invece per il futuro? Però mi perdoni, allora, dice... la questione, cioè, le faccio qualche nome che lei conoscerà certamente: il vice sindaco, suo ex vice sindaco Giovanni Ardizzone, il suo ex assessore Romano, l'ex presidente della provincia di Caltanissetta Federico, l'ex assessore di Monreale Dina, l'ex vice sindaco di Palermo Caronia, l'ex vice sindaco di Monreale Caputo e l'ex sindaco di Aci Catena Nicotra. Erano nella sua medesima condizione e loro hanno lasciato uno dei due posti. Lei rimane abbarbicato. L'ex vice sindaco era nominato dal sindaco Buzzanca, l'ex vice sindaco di Palermo. E così non è un'elezione. Non possiamo confondere una elezione con una nomina. Altri sindaci hanno optato. L'unico sindaco che ha optato, che non ha optato volontariamente, è il sindaco di Aci Catena, perché lì c'è stata una sentenza della Corte di Cassazione. Perché a lui è stato posto il problema di incompatibilità come sindaco. Anche il presidente della provincia di Caltanissetta, per esempio, se n'è andato. Ha fatto una scelta. Le chiediamo questo. Perché ritengo che bisogna difendere un principio democraticamente sancito, che è quello della elezione. Ma io non chiedo nulla di particolare, chiedo che si pronunci un giudice. Guardi, è una questione di sostanza, non di forma. Se c'è un giudizio che è pendente davanti al Tribunale di Palermo e l'udienza si terrà il 9 di marzo prossimo venturo, quindi non fra 20 anni. Quindi non le basta la Corte Costituzionale? No, perché mi risulta che anche il Tribunale di Messina il 17 novembre del 2010 ha dichiarato la sua incompatibilità accogliendo il ricorso. Non è vero. Davanti al Tribunale di Palermo si è tenuta un'udienza per la mia decadenza, mi scusi, da sindaco, e è stata respinta l'istanza del signor, mi sfugge il nome, era un elettore. Quindi bisogna conoscere bene i termini e non bisogna fare confusione. Dopodiché io ritengo che in democrazia debba valere il principio della sovranità popolare. Questo è il mio pensiero, forse sbaglierò. No, certo, perché magari... guardi, però molti giornali che titolano anche il Fatto Quotidiano: sindaco e deputato, Buzzanca resiste contro tutti. Cioè lei, mentre altri hanno optato, anche lei stesso dice, hanno fatto una scelta, lei questa scelta non la fa. Cioè, è questo. Non è che non la faccio per un capriccio, non la faccio per un principio. È diverso. Non è una questione di potere, cioè di tenere più di avere più potere, pensi, ecco, voglio dire. Lei pensa che ci può essere potere in un Parlamento regionale come quello siciliano, laddove vi è un dittatore che si chiama Lombardo e contro il quale io sono alla opposizione? È un problema di principio. Bisogna stabilire che vi sono alcuni principi, che c'è chi è disposto a difenderli, che invece chi non è disposto a difenderli, io sono tra i primi. Ecco, questo è il ragionamento che voglio portare avanti. Dopodiché, le ripeto, non si tratta di secoli, ma si tratta di qualche settimana. Legittimamente l'ARS ha espresso un parere uniformandosi a quello che era il principio che ha poi espresso la Giunta per le elezioni del Senato. Non sto per fare dei passi che sono azzardati, ma mi sto assumendo la responsabilità. Le dico di più, il vero problema qual è? Perché molti hanno già optato prima? Perché nel caso in cui dovesse esserci la pronuncia della giurisdizionale, si decade da parlamentare regionale, non da sindaco. Ecco. Siccome io questo paura non ce l'ho, e perché a me non interessa tenere la poltrona di parlamentare regionale, ma ho difeso e difendo un principio e comunque ho già detto chiaro. Però sindaco, difende un principio, lei dice non mi interessa fare il parlamentare, c'è un dittatore come Lombardo, ma capisce che la gente non capisce questo accanimento, questo attaccamento a un principio per cui rimane lì. ascolti, la gente lo capisce benissimo, perché io, se lei mi dà questo piacere, la invito a Messina e andiamo a farci una passeggiata a Messina per le vie della città, magari nei rioni prima più meno ambienti e poi in quelli più ambienti. Sì. E così comprendiamo se è vero quello che dice lei o al contrario quello che dice lei. No, che la gente sta con lei, ma io non lo metto in dubbio, ma lei è stato eletto. No, sul principio, gli chiediamo, andiamo nelle palestre, andiamo alla Coin, andiamo al Lupin. Ma andiamo al Lupin, però voglio dire, la questione è che lei dice a me non interessa stare in Parlamento regionale. Nel senso, lascia il posto magari a qualcuno che è più interessato, che poi sarà il primo non eletto dopo di lei. No, io forse non sono stato felice. Intanto il primo dei non eletti ha lasciato la coalizione e il partito che lo ha fatto eleggere. Il secondo. Cioè, è passato all'MPA. Lascerebbe il posto a un traditore, quindi insomma mi sta dicendo. Ma non, lei lo chiama così, io non lo chiamo. Io sono una persona che ha cambiato idea, e che nella vita è legittimo cambiare idea, senza che poi abbia cambiato idea. Si è poi collocato in altra formazione politica, quella forse magari coerenza vorrebbe come quella di difendere questo principio. Senta, no, io devo chiudere, sindaco e onorevole, la paga di 11.000 euro netti, lei prende solo questa, ripetiamo, non cumula le due paghe, è troppo secondo lei 11.000 euro netti? Sì, è troppo, secondo me è troppo, punto, è troppo e mi batterò per diminuirla, no? Guardi, noi abbiamo già fatto un primo passaggio, che è quello della riduzione dei parlamentari siciliani. Siamo stati i primi, forse in Europa, a ridurre il numero dei parlamentari da 90 a 70. Io ovviamente l'ho sostenuto in Parlamento questa tesi. Abbiamo già presentato un disegno di legge nostro, del PDL, per ridurre ancora di più il nostro compenso, che si compone di diverse voci. Ed è un fatto che secondo me va portato avanti. Non penso che si tratti di ridurre tu curre, perché guardi, esistono dei costi che un parlamentare per poter legiferare sopporta, allora sì. Bisogna quantificare, è come lo stipendio di un giornalista o lo stipendio di un manager. Quanto sarebbe una paga giusta secondo lei? 11.000 è troppo? Cosa sarebbe giusto? Ma guardi, noi abbiamo in questo momento una diaria di 5.600 euro che servono per le spese che si sopportano. Ma penso che sarebbero sufficienti 6-7.000 euro. 6-7.000 euro netti, va bene. La ringrazio, sindaco, per essere stato grazie con noi. Lei, sindaco grazie, e onorevole regionale Giuseppe Buzzanca, sindaco di Messina del Popolo della Libertà, che dice rimango lì perché è una questione di principio da difendere. Allora, noi ci fermiamo, pubblicità e meteo, e poi parliamo di lotta all'evasione fiscale anche attraverso la lotta qualcuno dice la schedatura delle prostitute a Bologna. Ma che succede? Si schedano le prostitute, si chiede quanto guadagni e si passano i dati al fisco? Potrebbe essere questa una via, legalizzare la prostituzione per farci cassa? 800 24 00 24. Alle 8:36, allora sono tempi in cui la lotta all'evasione fiscale si fa senza guardare in faccia a nessuno, così almeno sembra, no? Le polemiche ricordate, il blitz di Cortina, eccetera. Ma quello che sta succedendo a Bologna ha rilanciato la polemica su un altro fronte. Oggi Italia Oggi titola così: il fisco addocchia le prostitute. Ieri Libero era più esplicito, un titolo alla Libero: il fisco va a puttane. Insomma, da qualche tempo a Bologna, quando vengono fermate le prostitute dai carabinieri per i controlli, oltre a nome, cognome, nazionalità, insomma accertare chi siano le persone fermate, si chiede anche quanto è il guadagno medio a prestazione, quant'è il guadagno più o meno mensile, e poi questi dati vengono forniti al fisco. E allora si rilancia il tema: non è il caso di legalizzare questo tipo di lavoro e tassarlo? Ne vogliamo discutere intanto con due rappresentanti delle amministrazioni locali, l'assessore al commercio, turismo e legalità del Comune di Bologna, Nadia Monti, che saluto. Buongiorno, assessore. Buongiorno. Così come il sindaco di Albenga, Rosi Guarnieri, che è già stato nostro ospite su questo tema. Buongiorno, sindaco. Buongiorno a tutti. In passato ha detto apertamente che bisognerebbe riaprire le case chiuse, e uso questo gioco di parole. Saluto anche il senatore Carlo Giovanardi. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Anche a lei, responsabile per le politiche per la famiglia del Popolo della Libertà. Ma intanto, assessore Monti, anche perché so che lei non starà con noi fino alle 9, vorrei partire da lei. Anche lei, credo, esprimendo almeno una posizione personale, di recente ha detto, quindi non politica ma personale, però vorrei capire qual è la differenza, visto che è assessore a Bologna, ha detto: sarei favorevole alla legalizzazione della prostituzione. È così, assessore? Sì, sì, ho detto così, giusto. E che ne pensa di quello che sta succedendo a Bologna? È un modo anche per... potrebbe essere un modo per fare cassa per il fisco? Ma adesso parlare in questo momento di tassazione non, per il momento non mi sembra possibile, visto che manca una regolamentazione a livello nazionale. Quindi il censimento che è stato fatto, non, a parte il fatto che appunto non è stata una schedatura, ma è, fa emergere quel sommerso dello sfruttamento che occorre che viene a galla. Ecco. Mm. Quindi è chiaro che una regolamentazione, una legalizzazione del fenomeno, nel momento in cui definisce, pone le basi per il riconoscimento, no, di questa attività lucrativa, a quel punto farà departire anche un meccanismo di tassazione. Ma perché lei, perché lei è favorevole alla legalizzazione di questo fenomeno? Ci spieghi. Ma allora, la legalizzazione permette intanto di far emergere lo sfruttamento, che è il vero reato in questo caso. Il reato, come tra l'altro ha affermato anche una sentenza a Cassazione, non è l'attività della prostituzione, ma è tutto lo sfruttamento che c'è alla base, i rischi per le stesse donne, i rischi sociali. La legalizzazione permetterebbe prevederebbe un controllo fiscale, un controllo sanitario, un inasprimento anche delle pene per chi usufruisce prostitute sulle strade, quindi risolverebbe anche un problema di degrado, ma soprattutto garantirebbe una maggiore sicurezza per le stesse donne che in questo momento vivono in condizioni di grave rischio e pericolo per la propria vita. Insomma, come ci sono in paesi europei come Svizzera, in Germania, in Olanda, ieri Libero ricordava questi. Vorrei, su questa stessa posizione il sindaco di Albenga Guarnieri, tra poco la interpello. Prima però, senatore Giovanardi, che ne pensa? Qui è in mezzo a due, un sindaco e un assessore a Bologna, che sono tra l'altro per la legalizzazione del fenomeno. Una cosa sulla quale... Penso che siamo in piena follia tributaria, perché sì, se va avanti così con l'inversione dell'onere della prova, qui c'è qualche zelante persona che pensa si possa fermare le persone, qualunque cittadino italiano, non per andare a vedere se ha case, beni, quindi se non dichiara redditi, ma per venire a chiedere al singolo cittadino come spende i suoi soldi, cioè se perché ha comprato un gioiello, perché ha un certo hobby. Beh, il reddito, cioè, lo spesometro è così, insomma. Sì, scusi, il principio. Io ho un reddito fisso e ho 30.000 euro all'anno e ne spendo 28.000, come spendo i 28.000 sui 30.000 sarà un problema mio. Se poi invece piglio 30.000 euro e ho lo yacht, la villa e i beni al sole, giustamente mi verranno a chiedere come ho fatto a comprare queste cose. Ma uno Stato che mi venga a imporre di dirgli e di spiegargli ogni singola spesa che faccio con l'inversione dell'onere della prova, che se io a dover dimostrare al fisco se sono stato al ristorante, se sono stato in albergo, se ho comprato un gioiello come ho scritto stellino sul Corriere, è un incubo. È un incubo. Compreso che se io adesso vado a pigliare 1.000 euro in banca, devo andare oltre 1.000 euro a spiegare al banchiere perché tiro fuori 1.200 euro miei dalla banca. Allora mi sembra che da questo punto di vista stiamo sinceramente esagerando. Veniamo poi al dunque. Io ho detto milioni di volte che le case chiuse in Italia sono già aperte. Basta pigliare i quotidiani italiani, leggere le pagine degli annunci, trovare paginate intere di offerte di prostituzione che però si aggiungono a quella che viene fatta per strada, a quella che viene fatta negli appartamenti, a quella che purtroppo viene fatta dalle donne malate, dalle tossiche, da quelle che... Ma così lei presta il fianco proprio a chi dice, appunto, no, allora rendiamolo in maniera controllato, perché... con i controlli sanitari. Loro chiedono di aggiungere un altro segmento al mercato, cioè l'albo, perché naturalmente bisognerebbe che una donna accettasse di dichiararsi prostituta, quindi di farsi schedare, io la mia attività è quella della prostituta, puoi accettare che qualcuno organizzi in maniera imprenditoriale. Beh, mettiamo libera professionista, libera già adesso, perché quelle donne delle inserzioni... Ma dico, non è che ci sarebbe l'albo delle prostitute. No, però si deve accettare che un imprenditore svolga la sua attività e tragga guadagni dallo sfruttamento della prostituzione, perché se si aprono le case chiuse vuol dire che lo Stato, facendo un balzo indietro di decenni di civiltà, riconosce che si può sfruttare il fatto che delle donne si prostituiscono per far guadagnare una terza persona. Vabbè, però ecco, questo è già un punto interessante. Vorrei andare dal sindaco di Albenga. No, aspetti, perché sennò poi l'assessore di Bologna ci deve lasciare. Prego. Mi faccio andare dal sindaco di Albenga e poi l'assessore di Bologna, che così lo salutiamo. Sindaco Guarnieri, intanto le piace la posizione dell'assessore di Bologna? Insomma, vi trovate su questo, sullo stesso tema? E che ne pensa di quello che succede a Bologna? Schedatura o no, non è la questione, però è il controllo e poi passare i dati al fisco. Allora, io credo che gli interventi che vi hanno preceduto hanno dimostrato la differenza di chi sta sul territorio, che quindi vive il problema giorno dopo giorno, e chi invece vive in altri palazzi e che dovrebbe regolamentare, legiferare per risolvere eventualmente questo problema. Io mi trovo in perfetta sintonia con l'assessore di Bologna, perché purtroppo tutti i giorni vivo le segnalazioni dei cittadini, vivo questa situazione della presenza di queste donnine lungo un tratto di strada, che non mi pare né dignitoso per l'attività, cioè per la dignità umana, e non mi pare di decoro per quanto attiene l'ordine pubblico e la situazione. Sarebbe secondo lei dignitoso il cosiddetto albo delle prostitute, come io ha detto? Io credo che sarebbe dignitoso affrontare il problema, regolarizzarlo, quindi legalizzarlo e regolarizzarlo, e nel regolarizzarlo ovviamente tenere conto di tutti gli aspetti di che questa attività, perché tutti siamo soliti chiamarla l'attività, il mestiere più vecchio del mondo, sì. Del mondo. Il giorno dopo la legge Berlin si è aperta questa discussione. Sì, che va avanti da 50 anni. Assessore, certo. Monti, nel salutarla, la dobbiamo liberare, ha avuto problemi a Bologna per questa sua... Cosa vuol dire? È una posizione personale che non esprime, però... Cioè, lei è assessore, quindi voglio dire, è un politico. Però questo è un discorso che va affrontato a livello nazionale, quindi un amministratore locale su questo non può intervenire. Quindi rimangono osservazioni, riflessioni di carattere personale, è evidente. Ma io però ci tengo però comunque a fare una precisazione all'intervento gli interventi che mi hanno precedute. Abbiamo visto comunque i risultati che ha prodotto la Merlin, quindi le strade piene di prostitute, centri massaggi cosiddetti che di fatto all'interno offrono prestazioni sessuali, i giornali che venivano citati prima, tra l'altro proprio sui giornali, e sono proprio quelle attività che non sono tassate e sono invece volontarie. E l'altro aspetto, a questo punto, che io continuo a evidenziare, è che il faro a questo punto si sposterebbe sugli sfruttatori. Chi le sfrutta e chi ci guadagna. Non ho capito il concetto di prima, che a quel punto viene data libertà allo sfruttamento, ma è proprio il contrario, perché così facendo si aggrediscono i patrimoni che rappresentano quel reddito di impresa che deriva da un'attività illecita. E questo è il punto, la domanda sulla quale la dobbiamo lasciare. Precisando, illecito, che la Corte di Cassazione non l'ha riconosciuta illecita, quello che è grave è lo sfruttamento, ed è vero reato, certo. È lo sfruttamento, cioè. Su questo sì, noi ci fermiamo alle informazioni sul traffico, so che lei ci deve lasciare, la ringrazio Nadia Monti, assessore a Bologna, ma continuiamo tra poco con il senatore Giovanardi. Senatore, io vorrò proprio ripartire da questo punto, cioè, glielo chiederò ossessivamente finché io non lo capisco, perché lei dice c'è già le case chiuse, appunto ci sono i centri massaggi, c'è già la prostituzione eccetera, e non è una cosa di buon senso dire appunto, visto che c'è già, visto che è dimostrato che non si può assolutamente arginare, non è il caso di pensare di regolamentarla? Allora, senatore Giovanardi, la questione è questa, ce la vogliamo togliere dallo sporco dei marciapiedi, dai retrobottega, dai centromassaggi, dallo schifo dello sfruttamento? Mi scusi, innanzitutto lo sprovveduto assessore di Albenga, io mi vergogno quando... No, l'assessore è di Bologna. Sprovveduto, perché quando uno dice che Giovanardi, un senatore, non conosce le cose... È il sindaco di Albenga. È lei che sarà ad Albenga e non conosce come funziona la cosa in tutta Italia, in tutto il mondo. Quindi quando si discute, uno comincia a dire, ma il senatore non conosce le cose... È lei che non le conosce, perché se girasse l'Europa saprebbe che dove ci sono le cosiddette case chiuse, le strade sono piene di prostitute lo stesso, e ci sono i centri massaggi. Perché non siamo in una società agro-silvio-pastorale, siamo in una società purtroppo dove ci sono... Sì, ma ci sono più controlli. Gli albanesi, i nigeriani, dove ci sono forme le più svariate di prostituzione, alle quali lei propone di aggiungere un'altra. Allora, lo schifo della prostituzione, se i questori e i prefetti sanno fare il loro mestiere, quella per strada, è reprimibile. E i comuni possono applicare sanzioni anche ai clienti, e quindi fare finire questo scontro. Ma quelle nelle case no, non è che si può entrare in tutte le case. Io ripeto che quando uno piglia il resto dei canini, i messaggeri, i giornali, trova 10, 20, 50, 100, 200 offerte. Ma lei a quello va bene? Lei a quello va bene? Quello è legale, perché come è stato detto più volte, una donna in casa sua fa quello che gli pare. Non è che possa andare quello che fisco a dire, scusi, lei riceve degli uomini, quindi lei è una puttana, perché lei gli può dire, scusi, io a casa mia, io ricevo degli uomini, ma quello può essere un mio amante, può essere una mia relazione. Vogliamo fare uno Stato che vada a controllare a casa di una donna o di un uomo che cosa fanno loro per stabilire se un rapporto che hanno è un rapporto che deve essere tassato o non tassato? Se vuole, semmai, un'altra cosa che può essere ragionevole, se delle persone attraverso la loro attività hanno dei patrimoni, allora che questo patrimonio arrivi da un'attività che è quella di prostituzione, parlo di quelle che sui giornali hanno le inserzioni in cui spiegano anche tutta la varietà che fanno. Non è evasione, non è evasione, perché se non è un lavoro. No, per il reddito, per il patrimonio, se la finanza o i carabinieri vedono che questa signora ha intestato appartamenti, case, eccetera, appunto, eccetera, gli diranno, a prescindere da come il reddito l'ha fatto, tu hai questi beni e quindi paghi. Certo, però, però paghi, lei dice, scusi, incontravo amici, incontravo persone. Scusi, sono sprovvedute le signore che parlano, perché o c'è la libertà per una donna di autogestirsi, e nessuno ha niente da dire se autogestisce come adesso, perché la magistratura non interviene dove ci sono questi numeri e va a esercitare un'azione penale nei confronti di queste donne, perché ogni donna è libera di fare quello che vuole. Vabbè, sentiamo, permettere un'impresa, cioè permettere a delle persone di organizzare la prostituzione legalmente, di fare come una volta, avere una casa, un ranch, quello che volete, con 20 o 30 donne. E cosa c'è che non va in questo? Cosa c'è che non va? La cui attività non è produrre qualcosa, è vendersi. E loro avrebbero i ricavi su queste donne. Vabbè, ma cosa c'è che non va? Cosa c'è che non va in questa? È una questione morale? Sono sicuri che queste 30 donne, le prostitute, marchiate come prostitute, lo fanno volontariamente? Allora, sindaco, risponda a questo. Questo vorrebbe. Usciamo dalla vicenda personale, non replichi sulla questione Giovanardi, non conosce il territorio. Giovanardi va sul territorio. Però, insomma, risponda alle accuse del senatore. Non conosce il territorio, ho detto c'è la differenza di posizione tra chi governa il territorio direttamente, quindi è presente e deve dare risposte tutti i giorni alla gente, e chi invece è deputato a legiferare, che ovviamente è più lontano del piccolo territorio. Io non ho detto assolutissimamente che non lo conosce. Per quanto attiene i clienti, le sanzioni ai clienti, noi questo sistema lo utilizziamo da circa 3-4 anni, le sanzioni le facciamo, ma i clienti aumentano, le prostitute pure, quindi vuol dire che non è un deterrente. Io sul discorso all'estero, che negli stati dove è già stato utilizzato impiegata la legge per le case chiuse, per l'apertura delle case chiuse, che vi siano poi il fenomeno si presenti ugualmente in strada, io questo non lo conosco, me ne accerterò. Ma di fatto, ma in un messaggio di un ascoltatore ci dice, in Svizzera per esempio in strada non c'è nulla, viene però io adesso non è che sono esperto. Sulle vetrine sì, ma in strada non mi risulta che ci siano, però sicuramente il senatore conoscerà meglio di me il fenomeno all'estero. Ma di fatto legalizzare, regolamentare e controllare meglio, anche a tutela di chi decide di svolgere questa attività, perché giustamente la volta scorsa lei mi ha messo a confronto con la presidentessa di un'associazione quale diceva per noi è un lavoro, vorrei fosse riconosciuto come tale. Quindi sono già le professioniste stesse che dicono se si riaprissero le case chiuse e una ragazza vuole stare in una casa chiusa, lo farà con la sua libertà di scelta. Cioè questo, Giovanardi, cioè se vuole una persona fare quel lavoro lì, nel caso fosse un lavoro, riconosce questa libertà di voler fare questa scelta di vita? Sicuramente una libertà di farsi qualificare a vita come prostituta, di entrare volontariamente. Ma saranno fatti suoi, cioè saranno una scelta libera, voglio dire. Scusi, sono fatti suoi, sono fatti suoi che uno Stato riconosca appunto che un imprenditore ricavi reddito dal fatto che queste donne si vendono. Ed è così sicura la signora che conosce il mondo, io conosco il mondo, conosco anche Modena, conosco Roma, ho fatto anch'io l'amministratore locale, quindi questa storia che gli amministratori locali conoscono e i senatori vabbè ma usciamone, però vergognosa. Vabbè basta, usciamo da questa cosa. A vedere, oltre a tutta la prostituzione legalizzata, la prostituzione che c'è per la strada, la prostituzione delle tossiche, di quelle che si vendono per strada perché non sono più in condizioni sanitarie di farlo nelle case, perché quelle anziane o quelle malate, è chiaro che dalle case devono essere guardate fuori, no? Continuano a esercitare per strada. Poi, ripeto, a una donna, ma è così sicura che le donne che vanno a prostituirsi o sono indotte a prostituirsi o finirebbero in queste case lo fanno davvero volontariamente? Ma forse non lo so, cioè se fosse una questione legale, forse sì. Che ricattano le famiglie a casa, minacciano di uccidere le famiglie nei paesi d'origine africani o nei Balcani se queste donne non si prostituiscono, e quindi le ricattano e le minacciano. Mi faccia concludere con un'ascoltatrice, Romina da Caserta, in tanti hanno chiamato. Romina, abbiamo scelto lei tra tantissimi, dica a 30 secondi. Innanzitutto ho una domanda per il senatore Giovanardi. Dica. Ma nella fattispecie di quello che sta raccontando, mi chiedevo, se non c'entrasse la Chiesa di mezzo, perché noi abbiamo un'anomalia chiamata Chiesa che fa perdere voti qualora si vada contro certe logiche di puritanesimo americano. Guardi, perché, siccome il senso della domanda l'ho capito, mancano 30 secondi, anzi 20. Giovanardi, è una questione della presenza del Vaticano, della Chiesa? Risponda in 20 secondi. Lamberlini era socialista e la chiusura delle case chiuse fu salutata come una grande vittoria della sinistra in Italia. Ma dice che c'entra la Chiesa. Oggi c'entra la Chiesa. È un'osservazione totalmente infondata dal punto di vista storico, perché questa battaglia per la liberazione delle donne venne soprattutto dalla sinistra. La sinistra di una volta, non quella di oggi. Va bene, ci fermiamo. Grazie al senatore Carlo Giovanardi, al sindaco di Albenga Rosy Guarnieri della Lega e anche all'assessore che ci ha lasciato poco prima della fine della trasmissione, l'assessore Nadia Monti al commercio, al turismo, alla legalità del comune di Bologna. Ci fermiamo, grazie a tutti e che dire, ci ritroviamo lunedì mattina alle 7:20.